9. Ascolta e controlla. Mandagli un regalo. Mandateglielo presto. Mandiamoglielo via posta prioritaria. 1. Scrivile una lettera ora. Scrivetegliela stasera. Scriviamogliela domani. 2. Spediscigli un messaggio subito. Spediteglielo presto. Spediamoglielo ora. 3. Digli la verità. Ditegliela con delicatezza. Diciamogliela con calma. 4. Falle un favore. Fateglielo quando ve lo chiederà. Facciamoglielo quando lei ce lo chiederà. 5. Regalagli dei libri. Regalateglieli per la sua festa. Regaliamoglieli per Natale.